Allora, manifestiamo per chiedere più fondi per l'assistenza personale autogestita delle persone con disabilità, che riteniamo essere il presupposto necessario ad una vita veramente indipendente. Quindi una vita in cui decidi tu quello che vuoi fare nella tua giornata, senza stare ai vincoli di servizi di assistenza definiti da magari altri servizi. E il Movimento per la Vita Indipendente ritiene che la modalità per raggiungere questo obiettivo sia appunto assumere direttamente un assistente, o comunque avere assistenti in modalità simili che consentano di gestirli in totale autonomia, ecco, e autodeterminazione della persona. Leggevo nel comunicato stampa di questa manifestazione che adesso vige un paradigma rispetto alla disabilità, per cui la si guarda più da un punto di vista medico-assistenziale, mentre la disabilità è un problema sociale. Volevo chiederle di spiegare questo cambio di punto di vista che si dovrebbe adottare. Allora, quello di cui mi parla è un po' la contrapposizione tra il modello medico e il modello sociale della disabilità. Sono teorie che ormai, insomma, di cui si parla ormai da diversi anni, non è una cosa che abbiamo inventato noi. Sì. E per cui, diciamo, mentre il modello medico, adesso semplificando molto, identifica la persona con disabilità un po' con la sua menomazione, nel modello sociale va a evidenziare come a creare la disabilità sia anche un ambiente esterno che non è adatto, per esempio, in termini di accessibilità o in termini di assistenza che ti permette di avere, e quindi in questo modo ti rende disabile, mentre in un ambiente più facilitante, più favorevole, la disabilità va a diminuire, in linea teorica potrebbe anche sparire. Proprio rispetto a Bologna, come si svolgeranno le giornate in cui sono previste queste manifestazioni? E allora, Bologna si manifesterà venerdì, sabato e domenica, sempre dalle 15 alle 16. Il venerdì e la domenica saremo in piazza Nettuno, mentre il sabato saremo in via Indipendenza all'incrocio con via Altabella.